Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia di Luca Giambonino dal titolo Baldanzoso. Affrontare le sfide a cuor leggero, come mi piacerebbe esserne di nuovo capace. Baldanzoso, forte, fiducioso, ma purtroppo nella vita mia tante ne ho passate e mi risulta assai complesso essere come vorrei. Forse un giorno, se Zeus vorrà, tornerò come ero un tempo, un leone forte come un toro. Nulla poteva fermarmi allora, senza dubbi, senza incertezze, oh come era bello tenere il destino fra le mani.